Ci sono pistole che sono giocattoli, ma quella lì no. Lei la può usare tutto un giorno come martello, poi va a sparare e le fa un centro dopo l'altro. Ha una meccanica di precisione ed è robustissima. Le interessa un'automatica? Questa è una Colt 25 automatica. Piccola ma ottima. 5 colpi nel caricatore e il 6 in canna. Se è così imprudente da mettercela. Ecco, guardi questa. È una 38 Walter. 8 colpi nel caricatore. Guardi qui. Ha una meccanica perfetta. Gran bella pistola. Durante l'ultima guerra molte P38 le sostituivano con questa. Le davano solo agli ufficiali. È un gioiello, no? Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Tutti i nostri eroi dei film polizieschi, la classica beretta nera. Come si dice dalle nostre parti, alziamo una colletta e la beretta è nostra. Appena tornati in auto, la prima cosa che salta è il tappo rosso. E adesso? Storie di pistole finte e di pallottole vere, in una puntata tutta dedicata al vizio dell'ira. Settimana prossima è Carnevale, giusto? È già settimana prossima Carnevale, niente. Paolino Corleone non sa niente, Laura Faggin sicuramente sì, Laura Faggin in questa settimana sostituisce Anita Panizza e sta già cercando, però mi pare dalla programmazione delle puntate che abbiamo settimana prossima, abbiamo delle storie di Carnevale, quindi tante, facciamo che settimana prossima è Carnevale, esatto. E tutto per dire che quando durante il Carnevale di tantissimi anni fa io giravo per le strade del mio paese, che è in provincia di Novara e si chiama Romentino, è un paesino di 4.500 abitanti, io ricordo c'era questo ragazzo di cui non ricordo il nome e comunque non lo farei, che girava con una pistola scacciacani. A parte che io ho capito solo dopo chiamarsi scacciacani, che sta proprio per oggetto che fa rumore, quindi allontana i cani. Non so per quale motivo io credevo si chiamasse scalciacani, ma tant'è, questo è un problema mio che mi risolvo da solo. Insomma, girava con questa pistola scacciacani e io mi ricordo il clima di terrore che percorreva le strade di Romentino in quei giorni di carnevale. Io giravo con i miei amici della mia scuola, quindi scuola media di Romentino, vestiti male sostanzialmente, non avevamo una vera e propria maschera, non avevamo un costume, giravamo con dei jeans strappati, truccati male in faccia e con un manganello, chissà perché, e della schiuma da barba, ovviamente, quello che si faceva sempre. E c'era questo clima per cui tutto poteva andare bene. Era carnevale, potevi spruzzare la schiuma sui portoni, potevi spararla in testa a quelli più piccoli di te. Scene di ordinario bullismo, ovviamente, roba che non si dovrebbe fare e che oggi sarebbe giustamente punita. Infatti io ero terrorizzato ad andare in giro perché non sono mai stato un cuor di leone, ma ricordo benissimo questa pistola scacciacani che lui portava in giro. Credo non l'abbia mai usata, credo non abbia mai sparato un colpo, però ti si avvicinava e tu vedevi da come la teneva in mano, vedevi quanto pesava. Ed era comunque terrificante perché sembrava una pistola vera a tutti gli effetti. Vi raccontiamo storie che hanno a che fare con questo oggetto oggi. È una puntata dedicata al vizio dell'ira e abbiamo come protagonisti una pistola che è falsa, ma viene usata ovviamente come se fosse vera. È la fine che fanno tutte le armi finte. Tutte le armi finte in qualche modo giocano sul dubbio che sia vera e chi hai davanti ovviamente non lo può sapere. L'altra storia invece parla di pallottole e di pallottole vere, perché è una storia decisamente incredibile che arriva dagli anni difficili del nostro paese, intorno agli anni 80, in cui un architetto romano che lavorava nell'architettura penitenziaria si trova nel suo studio della gente che vuole usare il suo ruolo e usare la sua figura per farla diventare di fatto un martire del terrorismo e si trova con una pallottola nel cranio, ma ci sarà un colpo di scena proprio perché a raccontare quella storia sarà lui. È una storia che abbiamo recuperato nell'immenso e meraviglioso archivio dei diari di Pieve Santo Stefano e vi raccontiamo un pezzo alla volta. Direi che partiamo con un disclaimer in questa puntata, che è: non provatelo a casa. Benvenuti a Linee d'Ombra. È l'estate del 1987, è l'estate del mio 18° compleanno. Fa caldo a Roma, io e i miei amici passiamo le nostre serate quasi sempre sotto casa in un viale di periferia, ma periferia neanche troppo degradata. Abbiamo la metro A, stanno per aprire il primo centro commerciale della capitale. Le serate le passiamo soprattutto sotto casa, nel vialetto dove siamo cresciuti, chiuso al traffico, con alla fine 3 paletti di cemento che lo rendono senza uscita per le auto. Quello sarà sempre il vialetto. E noi siamo ancora quelli dei 3 paletti. Siamo il solito gruppetto, ognuno ha un soprannome. Siamo lì le sere d'estate a chiacchierare. Ogni tanto sbuca un pallone e parte l'eterna sfida con i rivali delle vie accanto, fino a notte fonda. In una serata come tante altre, ci ritroviamo in pochi, 3 o 4. Tra noi, Claudio, che è il più grande e ha già la patente. Tra qualche giorno io e lui partiremo, andremo a Rimini, al mare, in macchina, per una vacanza di quelle attese da tanto tempo. Quella sera però, quella sera d'estate, andiamo verso Trastevere. D'estate Trastevere ospita sugli argini del fiume una fiera, una specie di mercatino che si fa da tantissimi anni. Ora ci sono locali dove si beve e si mangia, dove si balla. All'epoca solo bancarelle che vendevano di tutto, dai vestiti usati ai dischi, lo zucchero filato. Una bancarella in particolare attira la nostra attenzione. Vende armi finte e coltelli, riproduzioni fedeli di pistole e fucili e coltelli e pugnali di varie misure. Cominciamo a passarci tra le mani una beretta, è come quelle dei film. Il modello non lo so, ma è uguale, di ferro. Ha solo il tappo rosso che la rende differente da una pistola vera. Come si dice dalle nostre parti, alziamo una colletta e la beretta è nostra. Per farci cosa? Nessun pensiero delinquenziale, è solo bella. Siamo solo dei bulletti di periferia. Appena tornati in auto, la prima cosa che salta è il tappo rosso. E adesso? Era bella, era molto simile a quella che si vedevano e si vedono nei film, quindi assolutamente senza nessun tipo di fine delinquenziale. E così era bella per fare i cretini tra di noi, ma niente di... E poi è scattata la goliardia dopo. Ci fermiamo ai bordi della strada, con l'auto parcheggiata a mezza via, e fermiamo tutti quelli coi motorini che sono senza casco. È da poco obbligatorio indossare il casco per andare in moto e per andare sui motorini. E deve anche essere omologato. A Roma non tutti ancora rispettano la direttiva, malgrado siano già passati mesi. E allora giochiamo a fare un finto posto di blocco con una pseudo auto civetta in borghese. Claudio infatti ha una Renault 5 che è blu con i vetri scuri. Sembra quasi una speciale. Teniamo il pezzo, la pistola, infilata a turno nella cinta dei pantaloni. Il gioco stupido è quello di far accostare, controllare il libretto, il casco e lasciare andare poi fingendo una grazia sulla multa per la mancata omologazione del casco, che a quell'epoca quasi tutti compravano a Porta Portese non omologato per pagarlo di meno. Sono giochi innocenti, sono goliardate, zingarate. Con la pistola ci sentiamo sicuri. Possiamo aggiustare una discussione o un torto stradale, un attrito in discoteca. Basta alzare la camicia, fare vedere il calcio. E c'è il fuggi fuggi generale. E noi giù a ridere. Ce la portiamo a casa qualche giorno a testa, facendo molta attenzione a non farci sgamare dai genitori. Take it from the playgrounds and take it from the bums. Take it from the hospitals and squeeze it from the slums. All the kids make pistols with their fingers and their thumbs. Advertise a revolution, arm it when it comes. We're cooking up the zeros, we've been doing all the sums. The judgment of this court is, we need more guns. Stop. Down all the trumpets, all the trombones and the drums. Who needs education or 1,000 splendid sons? Poor is good for business, cut the forest, they're so dumb. Only save your lookalikes and fuck the other ones. It's the opinion of this board that we need more guns. Stop! Everything's gone so crazy. Arriva il giorno della partenza. Claudio mi fa tribolare fino all'ultimo. Andiamo, non andiamo? Si è fidanzato da poco. La fidanzata andrà in vacanza con i suoi, vicino ad Ancona. Lui è geloso marcio. Alla fine lo convinco. Siamo a Rimini, non lontani da Ancona. Lo convinco. Nel preparare i bagagli metto la pistola nel borsone. Non si sa mai. La vacanza scorre tranquilla, discoteche tante, mare poco. La pistola la teniamo in macchina nel bauletto e molte serate ci salva da qualche situazione stradale causata dalla guida troppo romana. Un giorno Claudio si ferma a una cabina telefonica, non esistevano i cellulari ovviamente. Torna in auto e decide che deve andare a trovare la sua ragazza ad Ancona. È geloso, deve andare a controllare. Parte promettendo di rientrare per la discoteca la sera stessa. Io lo attendo in pensione la sera, dove conosco due ragazze molisane. Una delle due mi piace da matti. È una dark, bionda, eterea. L'avevo già notata sia in pensione sia in discoteca, quella che frequentiamo, il Carnaby Club. Decidiamo di andare al Carnaby insieme, tutti e tre. E a Claudio lascio un biglietto in portineria. Sono al Carnaby con la bionda. E vado. Eravamo solo io e Claudio in vacanza in quell'occasione, perché lui era l'unico automunito del gruppo, gli altri andarono in una vacanza all'estero, cosa che io all'epoca non potevo permettermi. Niente, Claudio è un mio amico d'infanzia. In discoteca ci divertiamo, si balla, si beve. Lei viene avvicinata da un gruppetto di ragazzi milanesi e a un certo punto, per toglierseli di torno, dice «Sono con lui, lasciatemi in pace», indicando me. Da quel momento è tutto un susseguirsi di passaggi intorno a me da parte dei componenti del gruppetto, dai quali vengo apostrofato con «Romano di merda» oppure «Ti aspettiamo fuori». Io comincio a preoccuparmi, quindi traccheggio insieme alle mie compagne di avventura fino alla chiusura del locale. E quando non c'è più nessuno, al buttafuori, che ci invita ad uscire, chiedo aiuto perché sono minacciato dai suddetti milanesi che promettono di menarmi. Lui, in tutta risposta, mi prende per il collo della maglietta e mi sbatte fuori insieme alle mie amiche, facendomi quasi caracollare per le scale che portano all'esterno. I milanesi sono lì, che mi aspettano, e si sfregano le mani. Ridono e mi chiamano «Romano, vieni!» Tiro il fiato, gonfio il petto, pronto a inventarmi qualcosa, quando alzo gli occhi e la vedo. Vedo i fari della Renault 5 di Claudio di ritorno da Ancona, che evidentemente era passato alla pensione e aveva letto il mio biglietto. Scende dalla macchina, mi guarda con sguardo interrogativo. Io, dalle scale, con petto gonfio e sguardo fiero, alzo pollice e indice della mano sinistra, a significare «prendila». Lui capisce al volo, vedo che infila qualcosa sotto la camicia dietro i pantaloni. Arriva e chiede spiegazioni. I milanesi sono tronfi, sono 6-7 contro 2. Aspettano la rissa. Il capobanda gli dice che io gli ho rubato la ragazza. Io mi avvicino e al mio amico, con un gesto fulmineo, sfilo la pistola da dietro la cintola e la piazzo sotto al mento del simpatico milanese. È fredda come quella vera e lui se la fa veramente addosso. Alza le mani, chiede perdono e se la dà a gambe, correndo dietro ai suoi amici che già si erano dileguati. Tiro un sospiro di sollievo, mi giro e anche la bionda e la sua amica, terrorizzate, se ne sono andate. Io e Claudio iniziamo a ridere. Il giorno seguente dobbiamo rientrare dalla vacanza e allora facciamo una cosa senza nemmeno parlarne troppo. Corriamo verso la spiaggia e lanciamo la pistola in mare. Basta così. Tra pochi giorni sarò maggiorenne e mi potrei cacciare nei guai. Questa storia penso ci siano almeno 4-5 vizi capitali. E spesso quando sgrido mio figlio, ora ventenne, per qualche stupidaggine, mi ritornano in mente le stupidaggini che ho fatto io. Oggi Claudio è un poliziotto, io no. A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm. He changed his clothes and shined his boots and combed his dark hair down. And his mother cried as he walked out, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." He laughed and kissed his mom and said, "You're Billy Joe's a man. I can shoot as quick and straight as anybody can, but..." But I wouldn't shoot without a cause. I'd gun nobody down. But she cried again as he rode away. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. E l'abbiamo detto in apertura di puntata, l'abbiamo detto quantomeno prima di lanciare la storia, non fatelo a casa, nel senso che questa è una di quelle storie che sta davvero al confine tra la linea che demarca l'ombra di ognuno di noi e la parte in luce di ognuno di noi, ed è per questo motivo che siamo anche molto grati ad Alessandro per avercela raccontata proprio così com'era. Pronto, ciao Alessandro, buongiorno. Ciao Matteo, come stai? Io sto benone, tu come stai? Hai una voce un po' così, cosa succede? Non ci conosciamo, no, ma mi sembra... No, mi hai fatto un po' emozionare, commuovere, perché comunque sono passati tanti anni e volevo rassicurarti sul fatto che non sono il tipo di Romentino, insomma, che girava con la cacciacani. Su questo non ho dubbi, perché appunto mi ricordo come si chiama e quindi so che non sei tu, Alessandro. Perfetto. Senti, quanti anni sono passati effettivamente? Sono 33. 33 anni. Senti, sì. Tu che ricordo hai di quel periodo? Scusami, non di quel periodo, esattamente di questi, degli episodi legati a questa pistola, perché non sono propriamente edificanti, no? Diciamolo. Assolutamente no, però erano altri tempi e comunque non c'era tutta questa attenzione che c'è adesso, come tu prima hai specificato, gli episodi di bullismo adesso vengono denunciati, fortunatamente all'epoca era tutto un gioco, uno scherzo, soprattutto nelle periferie delle città, soprattutto delle grandi città. Assolutamente, ripeto, non c'era nessun tipo di fine delinquenziale che potesse portare a dei problemi, ci saremmo fermati al limite, insomma, questo è sicuro. Senti, però, era ad esempio, solo per fare i cretini, insomma. Certo, però appunto in realtà avete rischiato anche grosso facendo cose tipo giocando a fare i come si chiamano? I cowboy, sì. Sì, ma quando fermavate i motorini e facevate dei finti posti totali di blocco. Questa cosa, ad esempio, quando tu citi tuo figlio in chiusura di puntata, no? È una storia che gli hai mai raccontato? Sì, che lui gli ho raccontato che oggi sarebbe andata in onda, quindi spero che mi stia sentendo, e lui mi ha detto che già l'ha raccontata ai suoi amici e spero che non con la preoccupazione di non ripetere questa cosa. Non fate questo a casa, come si dice nel wrestling. Senti Alessandro, tu quindi non hai mai avuto la sensazione che la tua vita potesse prendere una direzione piuttosto che un'altra no. Una certa fase della tua vita? No, è stato semplicemente... No, malgrado la periferia romana, sotto certi aspetti, tante persone che abbiamo incontrato sulla nostra strada hanno preso l'altro bivio e... A noi qualcuno, il dio del rock, ci ha messo una mano sulla testa. Perché poi il rock vi ha salvati in qualche modo. Assolutamente, dici. Come sempre. Senti, tu cosa fai nella vita adesso, Alessandro? E io lavoro, sono un precario del cine audio televisivo, insomma sono un direttore di produzione. Ah, ok. E lavoro, quindi... lavoro nel cinema, in questo momento prestato a una rete nazionale però. Ok, quindi ti occupi di un programma, dell'ambiente, mi sembra di capire. Sì. sei dell'ambiente, ma non si direbbe dalla storia, oddio, non che quelli dell'ambiente siano tutti integerrimi, anzi. Vabbè, all'epoca ero minorenne, neanche quindi... lavoravo. Alessandro, ti ringrazio davvero per averci raccontato la tua storia, in bocca al lupo per tutto. A presto. Grazie anche a voi. Ciao, ciao. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. The sound. Allora, ringrazio chi al 349-238-6666 mi scrive che qualcuno che conosceva lui, quella pistola a salve, la scacciacani, la chiamava la schiacciacani. Questo è effettivamente un altro dei modi possibili. E poi mi scuso drammaticamente per aver usato una forma non italiana ma leggermente dialettale, che è dire settimana scorsa invece che la settimana scorsa. Davvero chiedo scusa, chiedo venia, non lo farò mai più. Ora sentiamo, lasciamo la linea alle borse in diretta e poi torniamo ovviamente qui a raccontare storie. Linee d'ombra, storie dei nuovi vizi capitali. La puntata di oggi è dedicata al vizio dell'ira, che in qualche modo viene sublimato attraverso l'idea di una pistola o di una pallottola. La storia che vi abbiamo raccontato poco fa, la storia di Alessandro, parla di una pistola finta, di una scacciacani, che viene utilizzata in una maniera non proprio opportuna, non ortodossa. È arrivato un messaggio giusto adesso che dice: decenni fa con amici facciamo una cosa simile a quello che faceva Alessandro, cioè far finta di fare un posto di blocco da agente in borghese usando questa pistola così come palliativo, come specchietto per le allodole. Lo facevamo fermando le belle ragazze in corsia preferenziale non con una finta pistola ma con una finta paletta di quella in dotazione abitualmente alle forze dell'ordine. Fummo arrestati e processati per violenza privata, aperte le parentesi, con assoluzione piena, perché essere stupidi non costituisce reato. Continuiamo a raccontare storie, ma come facciamo sempre qui in Linee d'Ombra, andiamo da un'altra parte e vi raccontiamo un'altra storia che però parla sempre di questo, parla di violenza, parla di ira e parla di pallottole. Siamo negli anni di piombo, siamo negli anni 80 e qualcuno decide di prendere di mira un architetto, si chiama Sergio Lenci. Quel qualcuno sono un gruppo, sono quattro terroristi di prima linea. L'abbiamo trovato all'archivio di Nazionale, queste pagine che sono scritte proprio di suo pugno da Sergio Lenci. Dice così: venerdì 2 maggio 1980 è una giornata inondata di sole tiepido e carezzevole, che è proprio dell'incipiente primavera romana. Era un venerdì particolare, infilato tra la festa del primo maggio e il sabato. Costituiva un cosiddetto ponte che rendeva possibile una lunga vacanza, dal giovedì al lunedì. Con i miei collaboratori di studio avevo deciso di concederci questo ponte. Ci eravamo salutati il mercoledì sera. Per me la vacanza consisteva in un viaggio a Foligno, dove avrei incontrato, per ragioni di lavoro e di svago, una famiglia di amici. Dovevo portare a Foligno le copie di non so più quali documenti. Per questo pregai la mia segretaria di venire ad aiutarmi per una mezz'ora quel venerdì mattina. Verso le 8.30 ero già nel mio studio, occupato dalla preparazione della partenza. Intorno alle 8.45 la segretaria mi telefonò dicendomi che avrebbe avuto un quarto d'ora di ritardo. Ne approfittai per chiamare mio fratello, che non vedevo da diverso tempo. Durante la conversazione, che si svolgeva dal telefono del mio studio personale, udì suonare il citofono. E in questa puntata, dedicata appunto al vizio dell'ira, la seconda storia è proprio quella di Sergio Lenci, un brillante architetto romano che in quel periodo si stava occupando di edilizia carceraria. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Pensai che al citofono fosse la mia segretaria. Pregai mio fratello di rimanere in linea mentre andavo all'ingresso ad azionare il pulsante apriporta elettrico. Tornai quindi al telefono, ma dopo pochi secondi squillò il campanello della porta. Sempre pensando che la segretaria avesse dimenticato le chiavi dello studio, di nuovo pregai mio fratello di attendere e, depositato il ricevitore sulla scrivania, andai ad aprire. Appena aperta la porta di 10 centimetri, un giovane di statura molto piccola, infilato il piede nello spiraglio e con una mano protesa verso di me, qualificandosi come ingegner tal dei tali, spingeva per aprire il battente che io cercavo invece di richiudere. Ma dietro a questo piccolo individuo c'erano altre persone che si buttavano con tutto il loro peso sulla porta per aprirla ed ebbero facilmente partita vinta. Mi trovai di fronte a tre giovani uomini e una ragazza. Gli uomini erano vestiti in maniera normale, con giacca e cravatta. La donna, piccola di statura, era vestita di grigio, con un cappello di maglia sulla testa. Le intenzioni dei quattro erano inequivocabili. Ricordandomi che nella stanza attigua avevo lasciato il ricevitore del telefono sulla scrivania, con mio fratello dall'altro capo della linea, cominciai ad urlare aiuto con tutto il fiato che avevo in gola. Ognuno del gruppo intanto metteva in atto il suo compito specifico. Uno richiuse la porta, un altro mi spinse sul divanetto all'ingresso, mi tolse gli occhiali e, puntandomi una rivoltella calibro 38 sul naso, mi disse: «Sta zitto, hai fatto abbastanza casino, se no ti sparo subito». Costui era il Mutti. Queste parole molto convincenti mi indussero a tacere e ad osservare ciò che stava succedendo. I quattro si erano divisi in due gruppi, uno perlustrava lo studio, l'altro preparava il materiale per legarmi, stringhe di plastica, cerotti. Tutti erano armati di pistola. Ognuno l'aveva estratta da una busta di plastica nera. Uno dei quattro mi ordinò di alzarmi e avvicinarmi al tavolo. Cominciarono a legarmi saldamente i polsi dietro la schiena e le caviglie. Poi circondarono la testa all'altezza della bocca e del naso con un tenacissimo cerotto. Così conciato, fui condotto, per ordine del piccolino, nel bagno. A questo punto le prospettive erano chiarissime. Sarei stato gambizzato oppure ucciso. La mia unica speranza era mio fratello. Speravo che avesse udito le mie urla e chiamato la polizia. Appena fummo nella stanza da bagno, il mio guardiano mi ordinò di sdraiarmi a terra a faccia in giù. Non è facile però sdraiarsi a faccia in giù completamente legati. Non ci riuscivo. E allora fui colpito con un violento pugno alla schiena e caddi in avanti, faccia a terra, con la testa vicino alla tazza del gabinetto. Cadendo battei naso e fronte, e la contusione riportata, unita al grande cerotto, cominciò a darmi problemi di respirazione. Nell'altra stanza si erano intanto accorti del telefono sollevato e si erano impauriti. Perciò avevano deciso di accelerare il loro lavoro e concludere al più presto. Il loro lavoro consisteva in due funzioni precise, quella di uccidermi e quella di appropriarsi dei progetti del carcere di Spoleto che avevo fatto e che era in costruzione. Pensavo alla sorte doppiamente triste di morire e morire con la testa appoggiata al cesso. All'improvviso, senza udire alcun rumore, sentii un colpo violentissimo alla nuca. Immediatamente fui colpito da un senso di vertigini gigantesche. Mi sembrava di roteare in uno spazio infinito, senza più peso. Il mio corpo era diventato una massa insensibile, con un'unica parte sensibile e dolorante, la nuca. Il sangue cominciò a sgorgare, la bocca mi si riempì e mi sembrò di soffocare. Un primo segno della fortuna fu che il sangue caldo scostò il cerotto e potei riprendere a respirare. Non credo di avere mai perso i sensi. La polizia arrivò quando sopraggiunse anche la mia segretaria che aprì il portone. Entrarono e si diressero ai piani alti. La segretaria entrò nello studio. Subito notò sulla parete d'ingresso la grande scritta fatta con lo spray dai giovani assassini di prima linea. Diceva così: annientare i tecnici della controguerriglia. Chiamò i poliziotti che erano sulle scale. Visitarono tutto l'appartamento, notarono la scritta, il disordine lasciato, ma non videro altro. Per fortuna la mia segretaria ebbe l'idea di guardare in bagno. Mi trovarono in una pozza di sangue. All'inizio credevo di essere stato colpito con il calcio di una pistola e pensavo a una frattura del cranio. Fu dopo la radiografia che udii un medico dire a un altro: gli hanno sparato un colpo di pistola al cranio, il proiettile è ancora dentro. Allora capii tutto ciò che era successo e anche il pericolo che correvo per cause indotte da questo colpo di pistola rimasto nella testa, dove poi rimarrà per sempre, per consiglio di tutti i medici che mi hanno visitato e curato. Don't you know that I'll be around to guide you through your weakest moments, to leave them behind you, turning nightmares only shadows. Cast some light, it'll be alright. light and it'll be alright for now. Crosses all over, heavy on your shoulders. Sirens inside you, waiting to step forward. Disturbing silence, darkens your sight. Cast some light and you'll be. La storia che vi abbiamo raccontato è tratta dal diario di Sergio Lenci, che appunto abbiamo trovato all'Archivio Diaristico Nazionale e che è stato anche pubblicato dal Mulino. Si intitola Colpo alla nuca, memorie di una vittima del terrorismo. Sergio Lenci è mancato nel 2001, è stato colpito alla testa appunto nel 1980, aveva all'incirca 50 anni, poco più di 50 anni. Era un architetto e aveva lavorato anche presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'abbiamo trovata lì, all'Archivio Diaristico di Pieve Santo Stefano, e ha vinto il premio Pieve nel 1980. La sua storia. Tra pochissimo torniamo dopo le strade in diretta per parlare di una via con cui forse si riesce a placare l'ira, quella personale e quella sociale. Da Anystation c'è una novità che non vediamo l'ora di dirti. A febbraio, per chi paga il rifornimento con carte BancoPosta o PostePay, arrivano gli sconti Poste. E già da oggi, con carta di pagamento, puoi pagare i bollettini postali premarcati. Scopri le stazioni aderenti e le carte di pagamento utilizzabili su anystation.com. Anystation, puoi farci anche rifornimento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per informazioni sull'iniziativa Sconti Poste, vai su poste.it. Per il pagamento dei bollettini postali, consulta il fascicolo informativo presso le stazioni aderenti. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Da ormai 4 settimane, quasi un mese, temo che questa sia l'ultima purtroppo, vi stiamo raccontando la storia di Giorgio Bazzega, figlio di Sergio Bazzega, che appunto è stato una vittima del terrorismo. Sergio Bazzega è stato ucciso mentre faceva il suo lavoro, era un carabiniere, e viene ucciso da questo giovane uomo che appunto gli spara nel corridoio di casa sua. La storia di Giorgio è una storia di grande ira e rabbia accumulata nel tempo e senso di vendetta, che riesce a vincere anche e soprattutto grazie al lavoro e alle persone che ha incontrato nella sua vita. Noi l'abbiamo conosciuto, sia io sia Mauro Pescio, che racconta la sua storia, grazie a un libro che abbiamo visto presentare durante un evento di qualche anno fa, che si chiama Il libro dell'incontro, vittime e responsabili della lotta armata a confronto, che è stato pubblicato dal Saggiatore nel 2015. Questo libro è stato curato da 3 persone che hanno fatto un lavoro enorme e incredibile di incontro appunto tra le persone, tra le vittime e tra i terroristi rossi, insomma i terroristi di quel periodo storico, quello degli anni di piombo in Italia. Tra gli altri appunto i 3 curatori sono stati Adolfo Ceretti, Claudia Mazzucato, e al telefono noi c'è padre Guido Bertagna. Padre Bertagna, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie mille per essere con noi. Ci racconta che cosa è stato, come è nato l'idea di fare incontrare queste persone, cioè queste le vittime del terrorismo con i terroristi stessi. Beh, potrebbe dire che nasce da un lungo ascolto delle singole storie. Quando dico lungo parlo di anni, più o meno si sono, prima che il gruppo cominciasse a trovarsi e dunque che si creassero le condizioni, sono circa 8-9 anni così passati a incontrare storie, persone, ascoltare soprattutto. Quindi noi diciamo sempre che questo gruppo, che ha avuto poi nel lavoro anche sulle parole, sul senso delle parole, una chiave decisiva, direi, proprio anche della verità e della profondità del rapporto tra le persone. Ecco, queste parole però nascono e sono come incorniciate, valorizzate da un lungo ascolto. Noi abbiamo l'esempio proprio della storia di Giorgio, che ci ha raccontato che personalmente che cosa è stato per lui a un certo punto trovarsi davanti, accanto a queste persone, che erano le persone non solo che lui odiava, ma addirittura lui diceva: io volevo vendicarmi con le mie stesse mani, vendicare la memoria di mio padre con le mie stesse mani. Quante di queste storie avete maneggiato? Cioè, quante persone si sono incontrate? In che modo si incontravano innanzitutto? Dove vi trovavate fisicamente? Beh, noi avevamo come punto di riferimento avevamo un po' il centro San Fedele, dove io al tempo lavoravo, vivevo, la mia comunità era lì, e poi qui a Milano, giusto? Sì, la comunità di Villa Pizzone, dei gesuiti, i miei compagni di Villa Pizzone, e poi avevamo altre sedi dove più, come dire, più occasionalmente, a seconda delle giornate che facevamo, per esempio siamo stati più di una volta come nella sede della Casa della Memoria di Brescia, ospiti di Manlio Milani e di tutti i suoi collaboratori. E stavate anche più giorni, giusto? Stavate magari 2 o 3 giorni insieme? Sì, abbiamo fatto dal 2009 fino al 2014, sì. Quindi per 6 anni consecutivi abbiamo fatto dei campi estivi che vivevamo erano una settimana in montagna dove si viveva insieme. Quante persone c'erano? Quanti eravate? Beh, includendo anche i giovani a cui dal 2010 abbiamo chiesto di darci una mano, sì. Che si sono poi voluti chiamare i primi terzi, no? E anche così si sono presentati nel libro. C'è stata una presenza di 50-60 persone in questa casa. Padre Bertagna, come accadeva? Cioè voi chiedevate agli ex terroristi di raccontare delle cose, chiedevate alle vittime o ai figli delle vittime di fare delle domande? Sì. Cioè, di fatto come avveniva l'incontro dialogico tra queste persone? Dunque, appunto, avveniva sempre avendo come base un cammino il più possibile approfondito, talvolta quindi anche lungo, con le singole persone. Quindi si valutava sempre in quasi tutti i casi la disponibilità, e si cercava di capire che cosa emergeva nella persona e che cosa si poteva obiettivamente offrire. Poi dopo il lavoro nel gruppo è stato quasi sempre assembleare, cioè poi ci siamo resi conto che una volta che il gruppo, che poi è stato sempre un gruppo con due sedi, diciamo, perché per contiguità geografica, una a Milano e l'altra a Roma. Roma, certo. Ecco, allora una volta che i gruppi si erano formati con entrambe le parti e con i giovani come primi terzi a entrare nella dinamica del gruppo, poi dopo ci siamo resi conto che era decisivo che l'ascolto delle storie di ognuno avvenisse in presenza di tutti gli altri. Chiaro, e quindi che le vittime ascoltassero le storie degli ex responsabili dei gruppi armati e che gli ex responsabili ascoltassero le storie delle vittime. Chiarissimo. E che si potessero quindi anche chiarire, far domande o qualche confrontare, volta anche, confrontarsi anche duramente, ma in assemblea. Grazie mille davvero a Padre Guido Bertagna per averci raccontato qual è stata quell'esperienza. Se volete saperne di più, leggetevi il libro dell'incontro pubblicato dal Saggiatore. Grazie ancora, Padre Bertagna. Bene, buona giornata. Buona giornata. A presto. Giornata. Salve, e noi di fatto continuiamo a raccontare questa storia quasi senza soluzione di continuità, perché appunto la storia di Giorgio Bazzega arriva da lì, e siamo arrivati a un punto in cui Giorgio lo dice benissimo nel prossimo episodio della nostra storia seriale. Dice: era un piacere, faceva un effetto stranissimo sentire la rabbia che se ne andava. Allo stesso modo ho sentito le storie loro, delle loro sofferenze, delle sofferenze delle loro famiglie, dei loro figli. È stato molto coinvolgente. Durante il percorso che ho fatto mi sono affezionato a loro e non è stato facile ammetterlo, nemmeno a me stesso. Però è stata anche una bella sensazione, perché sai che sentirmi che mi scendeva quell'aggressività è stata una bella sensazione. E poi è stata una bella sensazione per me essere capito da loro, cioè che loro capissero questa mia rabbia, che l'accettassero, che la riconoscessero. Ed è stato l'inizio poi di un percorso, ripeto, difficile, però difficile alternato da momenti di grande empatia anche, grande amicizia poi. Mi sono scoperto a volere loro bene e mi sono sentito in colpa per questo. Mi sono sentito veramente in colpa, nei confronti di mio papà quasi. E ancora una volta a venirmi in aiuto è stata mia mamma. Sono andato da lei e le ho detto: mamma, ma sai che io mi sento in colpa. Il percorso è bello e sento che sto cambiando, ma io mi sento in colpa. E sai perché? Perché inizio a volere loro bene.